Il treno regionale 974 di Trenitalia, delle ore 10.33, proveniente da Milano Centrale, viaggia con un ritardo di 6 giorni. Attenzione! Preghiamo i signori viaggiatori di salire a bordo del treno, muniti di carta igienica. Si preannuncia un viaggio di merda. Grazie. Il treno Eurostar 874 di Trenitalia, delle ore 10.40, proveniente da Milano Centrale, dovrebbe arrivare. O meglio, dovrebbe essere partito. Attenzione! Il treno da lei desiderato è inesistente o momentaneamente non disponibile. La invitiamo a riprovare più tardi. Grazie. Informiamo i signori viaggiatori che i treni regionali 166 e 899 sono vietati ai minori di 18 anni. Il treno Intercity 749 di Trenitalia, delle ore 7.25, proveniente da Roma Termini, viaggia perfettamente in orario. Ci scusiamo per il disagio. Attenzione! Treno in transito al binario 6, lanciarsi oltre la linea gialla. Si informano i signori viaggiatori che è severamente vietato fumare in treno. Ora vi starete chiedendo, per quale motivo ci sono i posaceneri nel treno? Bella domanda. Il treno Eurostar Italia 758, delle ore 6.45, effettua un viaggio a senso solo, senza ritorno, se non in volo. Senza fermate né confini, solo orizzonti, neanche troppo lontani. Ci scusiamo per il disagio. Attenzione! Trenitalia vi invita ad ascoltare la nuova canzone di Faber e Fibra, reinterpretata da Daniele Grugna. Intitolata Trenitalia. Buon ascolto. Trenitalia, ben 6 ore di ritardo. Trenitalia, quanto vorrei essere sardo. Trenitalia, paghi tanto viaggi male. Trenitalia, benvenuto su Trenitalia, il finestrino è bloccato. Trenitalia, sto morendo congelato. Trenitalia è quasi messa peggio di Alitalia. È partito, chissà quando arriverà. Con quel viaggio in piedi mi sa che mi tocca fa. Ma che servizio è? L'igiene qui dov'è? Paghi 100 euro e se ne fottono di te. È partito, chissà quando arriverà. Con quel viaggio in piedi mi sa che mi tocca fa. Ma che servizio è? L'igiene qui dov'è? Paghi 100 euro e se ne fottono di te. Mamma mia, com'è bella questa canzone. Che ridere. Mi sono divertito un mondo. Ora scusate ma, torno a lavorare. Devo annunciare. 90 treni in ritardo, 66 treni soppressi, 5 scioperi e l'aumento dei prezzi del biglietto. A presto.